Italia in controluce. Buongiorno da Alessio Maurizi, torniamo nei luoghi dove è passata la grande cronaca, cerchiamo storie e personaggi inediti, questa è la nostra Italia in controluce. Oggi vi vogliamo raccontare una vicenda difficile ambientata a Taurianova. Siamo in Calabria, un paese di circa 15.000 abitanti in provincia di Reggio Calabria. La storia l'avrete forse letta sui giornali, è quella incredibile di una ragazza che ha subito delle violenze per molto tempo, poi ha trovato la forza di denunciare i suoi aggressori, tutti i suoi compaesani, ma ha dovuto subire le ritorsioni per essersi ribellata a un destino tanto crudele, una storia che ha tutto per essere definita disumana. Proviamo a raccontarla con Cristina Carpinelli. Aveva 13 anni. Per 3 anni è stata violentata da una ventina di uomini del suo paese. Aveva 13 anni e dopo ogni violenza le dicevano che se avesse parlato l'avrebbero uccisa e che avrebbero violentato le sorelle, ucciso la madre e il padre. È già difficile normalmente avere 13 anni. Ma qui, entroterra calabrese, a San Martino Taurianova tutto si ribalta e succede che i paesani, anziché proteggere, abbandonano una bambina al volere di uomini di 20, 30, 40 anni, padri di famiglia, che continuano ogni giorno ad abusarne. E quando la ragazzina decide di denunciare, succede qualcosa di orrendo. Il paese la isola e isola anche la sua famiglia. A 16 anni si porterà dietro questa ragazza il peso della violenza da sola, perché nessuno, neppure i servizi sociali di Taurianova, l'hanno aiutata o si sono interessati a lei. Questa che vi facciamo sentire è l'intervista al direttore dei servizi sociali di Taurianova, si chiama Giosuè Delfino. Quella ragazza di San Martino, noi abbiamo fatto qualcosa per assisterla che è stata violentata all'epoca. Sapevo del problema, ma mai nessuno, da quando è che io mi sono insediato, non è mai venuto nessuno a chiedere, a dire, a bisogno. Però dovreste essere voi a uscire sul territorio, perché se una persona viene violentata per 3 anni di seguito e non ha gli strumenti culturali per chiedere aiuto, dovete essere... Però se ho qualcuno che mi segnala il caso... Per me quello è. Ma i giornali l'hanno segnalato il caso, mi sembra abbondantemente. No, lei me lo sta segnalando, nemmeno me l'ha segnalato nessuno. Oggi, a distanza di 11 anni dall'inizio della violenza, questa ragazza non riesce a lavorare. Il paese, San Martino di Taurianova, le ha fatto terra bruciata attorno. Non può entrare in alcuni negozi e ancora peggio ci sono alcuni dei suoi violentatori che ancora la minacciano e la molestano. Per questo è intervenuto il questore di Reggio Calabria, Carmelo Casabona. Perché qui si tratta di comportamenti individuali, di 6 persone che sono state individuate con atteggiamenti di molestie appunto che proprio si configurano in una normativa ben precisa che è lo stalking. Ecco, l'atteggiamento mantenuto da questi 6 ragazzi nei confronti di questa, diciamo, vittima di questa attenzione mi ha proprio spinto a usare le maniere forti, perché non ritengo che sia assolutamente sbagliato che una donna, una ragazza che ha subito violenze possa ancora essere molestata, anzi dovrebbe essere protetta dalla città, dalla popolazione, e cosa che devo dire che non, almeno per quanto riguarda questi 6, non lo hanno fatto. Quindi il provvedimento che ho adottato è un provvedimento sicuramente duro, ma necessario per dare un segnale che questa è una ragazza che va tutelata. Quello che è stato raccontato di San Martino ha a che fare con una questione proprio culturale, nel senso di omertà anche, cioè rispetto, perché qualcuno dice che si sapeva, insomma, che questa ragazzina quando aveva 13 anni veniva ripetutamente violentata da gente del posto. Certo, non pare che sapeva, certo, no, ma certamente noi ci troviamo di fronte a un territorio sotto questo aspetto devastato sul piano, diciamo, culturale, no? Ma non è il territorio tipico riguardo un po' il meridione in genere, ci sono situazioni che rispetto ad altre zone del nostro paese risentono di una situazione di arretratezza culturale, ma questo è uno dei motivi per cui ancora oggi nel 2010 parliamo di 'ndrangheta, di mafia, di camorra. perché queste sono tre organizzazioni criminali che non è un caso che nascono nel meridione, quindi perché dietro c'è tutta una storia, non ultima anche quella della cultura che manca, la cultura della legalità, la cultura in genere, l'area in cui è avvenuto tutto questo è un'area di una forte arretratezza culturale, cioè, lì è preeminente la violenza, è preeminente la prevaricazione, ma non tanto perché ce l'andrà, ma è proprio un problema insito nelle persone stesse che vivono in quelle condizioni, perché lì, diciamo, è un retaggio culturale. Italia in controluce. Avrebbe compiuto 70 anni quest'anno. A molti manca la sua musica, ad altri la sua vena poetica o semplicemente la sua voce. Stiamo parlando di Fabrizio De André, scomparso 11 anni fa. Era nato il 18 febbraio del 1940 e dunque per lui questo sarebbe stato un anno speciale, avrebbe compiuto 70 anni. Roma gli dedica una mostra ed è curioso che a farlo sia la capitale, da cui De André era lontano come mentalità, avendo sempre preferito la periferia e gli emarginati. Daniela Binello. Il circostante non è fatto soltanto di nostri simili, direi che è fatto di tutto l'universo, dalla foglia che spunta di notte in un campo fino alle stelle. E ci si riesce ad accordare meglio con questo circostante, si riesce a pensare meglio ai propri problemi, credo addirittura che si riescano a trovare anche delle migliori soluzioni. E siccome siamo simili ai nostri simili, credo che si possano trovare soluzioni anche per gli altri. La voce di Fabrizio De André, dolcissima mentre si sofferma sugli indizi che gli poneva di fronte la vita, spiega meglio di tante parole l'uomo. Un poeta, si è detto. Un uomo vero, però. Mi sono reso conto che un uomo solo non mi ha mai fatto paura. Invece l'uomo organizzato mi ha sempre fatto molta paura. Ecco, semplicemente questo. Finalmente anche a Roma è arrivata la mostra su De André, visitabile fino al 30 maggio al Museo della Rapacis. A 10 anni dalla scomparsa di Faber, i visitatori possono fare una passeggiata con lui in 4 ambienti multimediali che mostrano la sua poetica, i personaggi delle sue canzoni che venivano fuori dal pianoforte di Villa Paradiso e infine nell'ultimo ambiente il percorso della sua vita, dai bigliettini che Fabrizio scriveva a mamma Luisa per chiederle perdono fino a quella lettera drammatica controfirmata da Dori che scrisse a Giuseppe, suo padre, durante la prigionia sul Supramonte. E naturalmente non manca il libro delle effemeridi, tutto annotato, perché Faber, non ci credereste, era un appassionato d'astrologia. La gente ha capito che è una persona unica, unica nel senso che è sempre stato coerente, non ha mai accettato compromessi, ha cantato in pubblico probabilmente solamente dopo la faccenda del rapimento, anche per poter pagare suo padre che l'aveva aiutato, cioè se fosse stato per lui probabilmente non avrebbe mai cantato. Quindi voglio dire, era una persona veramente che valeva la pena conoscere, valeva la pena fare un viaggio per andarla a sentire, valeva la pena tutto. Alla parata militare. Come ha commentato Andrea Grillo, che fu il suo promotore discografico, le canzoni a Faber uscivano fuori da com'era fatto lui, senza alcuna falsità. Perché piace ancora così tanto? Lo spiega Filippo Carcassi, un amico di famiglia. La poesia è una cosa irrazionale, parla al cuore, non parla alla testa. E quindi un poeta colpisce certe leve che abbiamo dentro di noi, e le fa vibrare e non c'è niente a che fare con la testa. Quindi non c'entra niente la posizione che uno ha nella vita, se uno è contento o scontento, se uno è felice o infelice. Se un poeta ti fa palpitare, tu lo ami. E lui colpiva con questa sua poesia qualunque ceto sociale. Alla prossima, Faber. Con le nostre parole. Grazie. Vado a fumarmi una sigaretta. Grazie a tutti. Buonanotte e buona fortuna. È tutto per Italia in Controluce, un programma con il coordinamento di Daniele Biacchessi. Potete scriverci controluce@radio24.it oppure cercateci su Facebook Radio 24 Italia in Controluce per segnalarci le vostre storie. Ci sentiamo domattina all'edizione delle 6:30. Buona giornata.